Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Ci siamo nonostante i Maya, è l'ultima puntata di Focus Economia del 2012 e su questo non ci piove, puntata speciale, borsa oggi è chiusa e nel decidere con Mauro Del Corno e Barbara Bianchi e quindi con chi assiste da anni il programma nella sua realizzazione che cosa fare per il 31 dicembre, beh, ci è venuto in mente che potevamo, invece che fare il solito riepilogo che abbiamo comunque già fatto il 24 dicembre dell'anno che si chiude, poi lo trovate su tutti i settimanali, i mensili, è un classico del giornalismo, beh, abbiamo pensato che questa volta potevamo fare riascoltare alcune delle interviste, dei passaggi, delle iniziative di Focus Economia che a noi personalmente erano piaciuti di più in quest'anno. La selezione, come immaginate, è stata difficilissima perché uno può dire perché ce ne sono poche, un altro può dire perché ce ne sono troppe, ma senza far torto a nessuno, però in totale libero arbitrio, abbiamo selezionato alcune degli interventi, ripeto, che ci sono sembrati più significativi non solo dal punto di vista dei contenuti, anche nella loro così radiogenicità e impatto emotivo. Iniziamo quindi con un'intervista che ha fatto parte di un ciclo, non voglio appunto far torto a nessuno, di interviste a vari imprenditori fatte durante il 2012 per capire come far fronte alla crisi e al calo dei consumi, soprattutto quali reazioni vengono messe in piedi, e però anche come si possano coniugare profitti e crescita economica con l'etica e con addirittura un'etica che va a dare a chi meno ha. Mi sembra che poi sotto Natale il tema sia quanto mai opportuno. E allora abbiamo preso l'esempio di il caso di un colosso mondiale. Magari a voi non dice molto, è la giapponese Sanrio. Ha oltre 1100 dipendenti e un fatturato di $1 miliardo. La metà di questo fatturato è riconducibile al personaggio più famoso. Loro hanno molti personaggi da cartoon di cui hanno i diritti, che tutti i genitori, soprattutto se hanno una bambina, anzi quasi esclusivamente se hanno una bambina, conoscono benissimo. Hello Kitty, vieni qua giù, fiocco rosso, naso di fu, al villaggio vieni anche tu. Eh sì, Hello Kitty è uno dei fenomeni di maggior successo a livello mondiale. Pensate che la Sanrio, la società giapponese che ne è proprietaria, disegna, sviluppa e distribuisce il marchio Hello Kitty, ma lo dà in licenza, cioè i soldi li fa dando la licenza. Ha una licenza con 1100 per la precisione catene commerciali al mondo, dal Corte Inglese alla Standard, alla Rinascente, a Walmart, per un totale di 12.000 prodotti che vanno dalla cartoleria alla moda, alle borse, alle decorazioni, all'insalata, con il marchio Hello Kitty. Poi altri 400 personaggi, My Melody, Tuxedo Sam. L'intervista che vogliamo riproporvi, perché è un'intervista a mio avviso da manuale su quello che dovrebbe essere il pensiero di un manager aperto, non che sta attaccato alla poltrona, è l'intervista appunto con il numero 2 della Sanrio a livello mondiale, che è un italiano, Roberto Lanzi. Lui sostanzialmente gestisce tutto il business tranne che in Giappone, e quindi ha la delega su Europa, Africa e Medio Oriente. Tra l'altro è anche presidente della Sanrio Foundation, che è la fondazione benefica di Sanrio per portare un sorriso ai bambini malati in tutto il mondo. Ebbene, gli abbiamo chiesto innanzitutto in modo molto diretto come una società come Sanrio fa i soldi. I soldi li facciamo in tre modi principali. La Sanrio è nata 55 anni fa come azienda di dettaglio, quindi noi gestiamo ancora più di 400 negozi aziendali al momento e un migliaio di franchising. Noi solo in Cina abbiamo 120 negozi monomarca Sanrio. Non abbiamo negozi in Europa, ben pochi, abbiamo solo a Hamburgo, ne abbiamo uno a Londra, perché l'Europa da tanti anni il rapporto costi gestione di un negozio e vendite di prodotti non necessari è un rapporto molto sbilanciato. Ne abbiamo tanti, 160 negli Stati Uniti, ne abbiamo tanti in Medio Oriente,

nella preparazione del programma e soprattutto nella sua conduzione. Vedo che sorridono, ma lo fanno per obbligo contrattuale. Noi ci risentiamo nel 2013, buon anno a tutti. Sarà un anno migliore di questo? Sì, lo sarà sicuramente, non ci vuole molto dal punto di vista economico, ma lo sarà sicuramente. Al 2013, ad Maiora.